Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Iran is set to launch their first nuclear reactor next week with a lot of help from the Russians. Russia is going ahead with plans to load fuel into Iran's first nuclear power plant. An announcement from Moscow this morning put Iran a step closer to opening its first ever nuclear power plant. Allora, ampio risalto dato dai media, come avete sentito, dai media internazionali, per la partenza della centrale nucleare di Bushehr in Iran. Tra 5 giorni verrà accesa la gestione, vedrà l'aiuto russo. Che cosa significa questo? Il programma di Bushehr, che impatto avrà sul programma nucleare militare iraniano? E poi uno sguardo a politica e società del paese medio orientale. Quest'oggi a Nessun Luogo è Lontano. L'Iran, per capire se il paese è a una svolta nella sua storia, cercheremo di indagare meglio, di dare uno sguardo approfondito a politica e a società, partendo però dall'aspetto energetico e quindi militare. Se volete interagire con noi, sms 349-238-6666 per domande a me, ai miei ospiti, condensati in 160 caratteri, oppure se volete dilungarvi nei commenti o nelle suggestioni, la mail nessunluogo@radio24.it. E poi vi ricordo che ci siamo fatti sedurre pure noi dal fascino del social network e quindi siamo su Facebook, la pagina è Nessun Luogo è Lontano. Allora, Iran, stato dell'arte, abbiamo detto, questa centrale di Bushehr che verrà accesa fra 5 giorni, vogliamo capire, perché la centrale di Bushehr è una centrale a uso civile, vogliamo capire meglio se questa cosa, se e quanto influisce sul programma militare invece iraniano. E allora abbiamo chiesto lumi a chi? A un ingegnere nucleare che è Giuseppe Bolla, che per anni è stato direttore della centrale nucleare di Caorso. Diciamo, una centrale di produzione di energia elettrica funziona con del combustibile, no? Questo combustibile è composto da diversi materiali, fra cui uranio e in certi casi anche ossidi misti di uranio e di plutonio, no? L'uranio è, si dice, leggermente arricchito, cioè in natura si trova una percentuale di isotopo molto bassa che poi attraverso dei procedimenti industriali subisce l'arricchimento, e quindi e questo è il primo fatto, no? Quando uno piglia sto materiale e in qualche modo riesce a cambiare le percentuali di uranio, si chiama fissile, quindi quello che può più facilmente dare la reazione nucleare, è chiaro che dipende dalle percentuali che fa, però può produrre, diciamo, delle percentuali tali da essere quasi delle bombe, no? Quindi utilizzarlo non solo per scopi, quindi non è la centrale in se stessa di produzione di energia elettrica, ma l'impianto che produce e fa l'arricchimento del combustibile. Quando poi il combustibile ha funzionato nella centrale, in generale, diciamo, c'è un'attività che si chiama riprocessamento, che serve a separare, diciamo, materiale ancora utilizzabile, che è uranio e plutonio, da tutto il resto che invece è da buttare via, scorie oppure materiale non più utilizzabile. Anche questa attività è un'attività che porta alla produzione di uranio e di plutonio, quindi di materiali che possono anche potenzialmente essere usati a scopi militari. La discussione non è tanto sul fatto di produrre, ma su chi gli dà il combustibile, tant'è vero che la Russia dice: ti do io il combustibile e poi me lo vengo a prendere. Questo vuol dire che l'Iran a questo punto non mette a punto quelle tecnologie che sono quelle che dicevo prima, che consentono, diciamo, di produrre materiale radioattivo anche per scopi militari. Ma la notizia di queste ore è che l'Iran continua in qualche modo a sfidare l'ONU, perché all'inizio del 2011 costruirà un terzo impianto per l'arricchimento dell'uranio dopo quello di Natanz e Qom. L'annuncio giunge dopo la quarta tornata di sanzioni delle Nazioni Unite e a 5 giorni appunto dalla censione della centrale nucleare di cui stiamo parlando. Allora, per capire meglio che cosa sta accadendo e anche in che quadro normativo ci stiamo muovendo, abbiamo ospite Michele Gaietta, che è dottorando in istituzioni politiche all'Università Cattolica di Milano. Gaietta, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Allora, innanzitutto facciamo un po' di chiarezza. Qual è il quadro normativo? Quando si parla del trattato di non proliferazione, di che cosa stiamo parlando esattamente? Ma difatti io credo sia necessario fare un po' di chiarezza per rapportare lo stato del programma nucleare iraniano rispetto a 3 diversi livelli e contesti normativi. Il trattato di non proliferazione è entrato in vigore nel 1970, per fornire un supporto normativo contro la diffusione di armi nucleari. Il problema è che questo trattato è figlio di un compromesso volto a garantire ad alcuni paesi, ovvero Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia, Germania, Francia, Inghilterra e Cina, di continuare a mantenere i propri arsenali atomici, e questo ha portato quindi gli altri paesi membri del trattato di proliferazione ad avere maggiore autonomia per lo sviluppare i propri programmi nucleari civili. E quindi il trattato di proliferazione si incentra sulla violazione del trattato stesso e quando vi è una diversione del materiale fissile, ovvero la produzione di uranio altamente arricchito o plutonio. E questo ha comportato sul programma nucleare iraniano che l'IEA ha più volte affermato che l'Iran non abbia violato il TNP, in quanto non sono state riscontrate violazioni, diversioni del materiale fissile negli impianti dichiarati. E questo comporta un secondo livello di analisi rispetto agli accordi tra l'Agenzia Internazionale e l'Iran. Gli accordi di salvaguardia volti a garantire la non diversione degli impianti nucleari. E in questo ambito invece l'Iran ha violato questi accordi di salvaguardia, non rispettando alcune norme legate alla dichiarazione di attività nucleari nel paese e alla dichiarazione di impianti nuovi, della costruzione di nuovi impianti nucleari, anche se in realtà questo contesto normativo è molto complesso e ambivalente. Questo ha dato il via quindi al fatto che il programma nucleare iraniano sia entrato nel Consiglio di sicurezza, sì, e che con le quattro risoluzioni delle Nazioni Unite che l'Iran non sta attualmente rispettando. Sì. Posso fare una parentesi, sì, rispetto alla nuova dichiarazione degli impianti di arricchimento? Possiamo dire che questo viola in parte le sanzioni delle Nazioni Unite, non si sa se violerà gli accordi di salvaguardia e sicuramente non viola il trattato di proliferazione, fino a che l'Iran non decida di produrre materiali fissili a livelli elevati. Quindi Gaietta, se ho ben capito, la centrale di Bushehr non viola alcun trattato ed è, come dire, nell'alveo della legalità internazionale. Capisco bene? Sì, sì. Questo è il primo punto. Sì. Il secondo punto, gli impianti per l'arricchimento dell'uranio, quello no. Quello potrebbe andare a violare, o mi sbaglio? Dipende, a mio avviso, quando verranno dichiarati la locazione di questi impianti. C'è un codice su cui c'è un contratto tra l'IEA e l'Iran, sì, che impone all'Iran di dichiarare la costruzione di un impianto nel momento in cui questo viene pianificato, certo, ancora prima di essere costruito. Mentre l'Iran dice che si rifà ancora una interpretazione differente di questo codice, che porta l'Iran a dichiarare all'IEA questo impianto solo 180 giorni prima dell'introduzione di materiale fissile. Sì. Quindi in teoria non vi sarebbe una violazione del TNP, del Trattato di Proliferazione, neanche sugli impianti di arricchimento. Sì. Il problema che molti osservatori poi pongono non è tanto il lavoro che viene fatto alla luce del sole, ma le presunte costruzioni di siti nucleari e il presunto lavoro che viene fatto nell'ombra da parte dell'Iran, quindi diciamo dietro la facciata. Questo è uno degli elementi, difatti quello che dicevo in precedenza, gli impianti non ha violato il TNP sugli impianti dichiarati, questo è un elemento su cui l'agenzia ha posto molta importanza. Certo, quindi il problema è il non dichiarato. Il problema è il non dichiarato. A mio avviso vi è una sensibile attenzione della comunità internazionale, dell'intelligence internazionale nei confronti dell'Iran, che rende molto difficile, abbiamo visto nel caso di Qom, che è stato individuato già a partire dal 2006, poi è stato resa pubblica l'esistenza di questo impianto nel 2009. Quindi non sarà facile per l'Iran nascondere ulteriori impianti. Io credo che la dichiarazione della costruzione di nuovi impianti sia da inserire in un contesto volto a difendere i propri impianti di arricchimento da potenziali attacchi da parte dell'aviazione israeliana piuttosto che statunitense. Grazie allora, grazie Michele Gaietta per il suo contributo. Nel frattempo vi voglio far ascoltare quello che è il grido d'allarme, invece molto chiaro, che getta Davood Karimi, che è un giornalista e un collega esperto di Iran, è presidente dell'Associazione Rifugiati Politici Iraniani. Ascoltate. La natura natura del regime iraniano è una natura assolutamente al di fuori di qualsiasi parametro civile e umano. Allora, qualsiasi progetto dentro questo quadro terroristico, fondamentalistico, va letto con tanta attenzione. Il regime iraniano sta portando avanti un progetto nucleare atomico militare per portare avanti un disegno molto grande di islamizzazione del mondo intero, a partire dal Medio Oriente. Allora, qualsiasi evento che si entra in questo quadro va letto con un occhio di riguardo che deve fare anche tanta paura. Perché? Perché il regime iraniano è da 30 anni che sta portando avanti un progetto segreto militare, anche questo progetto civile, tra virgolette, non è tanto civile. Perché? Esatto. Per arrivare alla bomba atomica, il regime iraniano fino ad oggi ha usato questo progetto del centrale Bushehr per giustificare altri provvedimenti, altre azioni, altre iniziative in campo di arricchimento del nucleare. Sappiamo che tempo fa loro giustificavano l'arricchimento dell'uranio per riparare materie prime per Bushehr. Allora, secondo me, centrale Bushehr deve fare più paura, perché con la scusa di Bushehr, lui, il regime iraniano, mette in moto altri siti per arricchimento dell'uranio. به حرمت اون پلاک شهیدی که هنوزم خاک ایرانش حماس میسازه نزار به ویرانه به کش مرز و بومت ارق ملی رو دوش ما هست و بوده درچه تاریخ و بردار و ببین دود نقشه ایران مثل الماس و نگی باها بچه های همون نقشه هستیم که پشت و بانمونه به تخت جمشیر و وطنت غیرتت کجاست. Allora, questa notizia, quella della centrale di Bushehr, ma soprattutto poi i nuovi impianti di arricchimento, hanno un po' scatenato la stampa alla ricerca di scenari nella costruzione, insomma, di quello che potrebbe essere il nuovo risico nella zona medio orientale. Ma quello che ha fatto Atlantic Monthly, che è un periodico americano piuttosto ben informato sulle questioni medio orientali, è paventare un attacco di Israele sulle centrali nucleari. Questo dossier è stato poi ripreso anche dalla stampa israeliana. Chiaramente quello che viene ipotizzato sono una serie di attacchi fatti con caccia militari su siti nucleari iraniani. Allora, per saperne di più abbiamo chiamato Andrea Nativi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Andrea Nativi, il nostro esperto di tutto ciò che è strategia militare. Andrea, allora, partiamo dal fatto che la bomba nucleare o l'armamento nucleare non è efficace in quanto lo si usa, ma è efficace in quanto arma deterrente, cioè è più la minaccia, no, che l'utilizzo stesso, o mi sbaglio? Dipende, diciamo, fino ad oggi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è bastato non il possesso, ma l'idea che qualcuno potesse avere la bomba nucleare. Lo vediamo per la Corea del Nord e l'abbiamo visto per qualche tempo con la Libia, ti porta a essere trattato con i guanti. Vedete come gli Stati Uniti sono attenti e delicati con la Corea del Nord, perché c'è il rischio che abbia la bomba. E l'Iran ovviamente non è da meno, dice: mi doto di un armamento nucleare, a quel punto anche gli israeliani stanno più attenti, gli americani non mi toccano più, io divento quasi invulnerabile, e per quello vuole la bomba. C'è però da dire che nell'equazione iraniana nessuno è del tutto sicuro che poi la bomba non venga usata in qualche situazione estrema, perché l'arsenale missilistico per esempio è in mano ai Pasdaran e i missili sono lo strumento principale per lanciare la bomba. Quindi sì, la deterrenza dovrebbe essere la questione fondamentale, o la possibilità di avere una polizza di assicurazione, ma è meglio stare attenti quando si fanno questi conti, perché qui abbiamo di mezzo il Pasdaran e un fanatismo che può essere pericoloso. Andrea, tu credi realmente nella minaccia nucleare iraniana? In parte mi hai già risposto, ma lo vorrei un telegrafico, sì o no, perché poi c'è la borsa. Per me è un sì, ma non immediatamente, è ancora questione, abbiamo ancora 5-6 anni e possiamo mettergli i bastoni sulle ruote e rallentarli. Yeah. dunque la minaccia nucleare iraniana che, secondo Atlantic Monthly, potrebbe essere, come dire, prevenuta da un colpo di mano dell'aviazione israeliana. Andrea Nativi, direttore rivista italiana Difesa, con lui stiamo cercando di capire se questo scenario è plausibile o meno. Il mensile americano ipotizza appunto una serie di attacchi con gli F-15 e gli F-16 israeliani. Prima domanda, Andrea, è ipotizzabile che questa cosa avvenga senza il consenso degli Stati Uniti? No, direi proprio di no. Almeno tacito assenso ci deve essere, e ci deve essere possibilmente anche un bel supporto, se non altro a livello intelligence, altrimenti l'operazione rovinerebbe completamente le relazioni tra Stati Uniti e Israele. Non credo che si arriverebbe a una cosa del genere anche con l'attuale governo israeliano, perciò anche se magari poi gli americani dicono ma in realtà non ce l'hanno detto, diciamo che glielo direbbero e chiederebbero aiuto. Ecco Andrea, chi, che cosa andrebbero a colpire gli F-15 e gli F-16 in Iran? Beh, dovrebbero andare a fare tanti tanti bei giri, perché dovrebbero innanzitutto distruggere il complesso industriale nucleare iraniano, e non è semplice perché è disperso in un paese immenso ed è in buona parte protetto perché è messo sotto terra. Aggiungiamo a questo che alcune delle infrastrutture nucleari comunque non si sa dove siano, quindi non si può colpire quello che non si sa neanche se c'è e dov'è. Poi dovrebbero, per fare questo, completare l'opera, devono distruggere anche il complesso missilistico, ovvero sia tutte le basi di lancio, i centri di ricerca, gli impianti industriali dove si preparano i missili balistici che servono all'Iran, potrebbero servire all'Iran per recapitare le testate nucleari, sono lo strumento ideale. Ecco Andrea, dunque, scusami, ti interrompo perché mi sembra un punto fondamentale che spesso, come dire, viene tralasciato, cioè passa in secondo piano. Oltre a eventualmente andare a realizzare un ordigno nucleare, cioè una testata, bisogna poi trovare il modo di lanciarla, quindi il programma missilistico va di pari passo con quello nucleare. Assolutamente sì, non solo. Un conto è realizzare una testata da laboratorio che si fa esplodere in un test, altro è realizzare una testata vera e propria, cioè dalla bomba passiamo alla testata, e la testata è una cosa complicata che va montata su un missile, deve sopravvivere al lancio e arrivare con precisione relativa sul bersaglio. Quindi questo tra l'altro ci dà ancora un po' di margine, cioè se loro arrivassero al nucleare permetterà appunto la testata e il missile, ci vuole ancora un po'. Però loro lavorano anche, bisogna dirlo, su due binari paralleli, quindi via i missili e via il nucleare. E non basta, già che ci siamo bisogna anche togliere, se possibile, la base dei sottomarini convenzionali che consente all'Iran di controllare l'accesso al Golfo e una parte del sistema di difesa aerea integrata. Però tutto questo, secondo me, è fantascienza. Ecco, tra l'altro non stiamo parlando di un blitz che può ricordare quello fatto contro la Siria, no? Qui stiamo parlando di, posso dire, una guerra in piena regola, perché stiamo parlando di bombardamenti, di più caccia che si solleva in volo, di un supporto americano, cioè è uno scenario molto più complesso. Non è cinque caccia israeliani che si sollevano in volo, fanno un blitz, mordi e fuggi e poi tornano, no? Esatto, senza contare la geografia, le distanze in gioco, l'esigenza del rifornimento in volo, ma è la dimensione del paese. Un conto è andare a beccare un singolo obiettivo puntiforme ben preciso, come hanno fatto in Siria e come hanno fatto anche a suo tempo aus Iraq in Iraq. Qui si tratta di fare una campagna e secondo me è fuori dalla portata degli israeliani, anche se agli aerei si può aggiungere qualche altra cosetta, per esempio i missili da crociera lanciati dai sottomarini e eventualmente, se uno proprio volesse fare uno scenario a dottor Stranamore, il lancio dei missili balistici israeliani, non a testata nucleare ma convenzionale. Però, ripeto, questa è veramente una cosa più da tecnothriller Tom Clancy che uno scenario realistico, perché un attacco non completo lascerebbe non solo l'Iran con buona parte delle sue infrastrutture, ma anche molto molto incavolato, e chissà come reagirebbe. Grazie allora ad Andrea Nativi per la sua solita precisione e puntualità nella descrizione degli scenari. Una buona giornata e un buon lavoro. A voi, arrivederci. Allora l'Iran a nessun luogo lontano, 349-238-6666, se avete domande a me e ai miei ospiti, pagina Facebook nessun luogo lontano, la mail nessunluogo@radio24.it. questo è il complicato scacchiere geopolitico. Queste sono state le dichiarazioni, questa è la politica. Cerchiamo di capirne ancora un po' di più grazie a Farian Sabai. Buongiorno Farian. Buongiorno Giampaolo e buongiorno ai nostri ascoltatori. Giornalista, scrittrice, autrice fra l'altro di storia dell'Iran e anche di Un'estate a Teheran, anche un blog su panorama.it. Allora Farian, mancano un po' di tasselli nel descrivere quello che è lo scacchiere geopolitico in cui si inserisce l'Iran. In parte uno l'abbiamo già toccato perché è la Russia che in qualche modo va a gestire la centrale che parte tra 5 giorni, ma poi come possiamo un po' descrivere il gioco di forze e di equilibri che sta tenendo l'Iran a livello internazionale? Ma sicuramente è una situazione complicata, non dimentichiamo che l'Iran è un paese grande, 5 volte e mezza l'Italia. Prima Andrea Nativi accennava alla questione di Osirak, la centrale nucleare irachena è stata sì bombardata nel 1981 dagli israeliani, ma l'anno prima, nell'80, era stato bombardato dagli iraniani quando non ancora aveva materiale radioattivo al suo interno e poi è stato ricostruito dai francesi appunto per essere bombardato dagli israeliani, quindi c'è stata anche una qualche forma di collaborazione almeno fino al 1991-92 tra Tel Aviv e Teheran. Oggi la situazione in Iran è una situazione che comunque guarda un possibile attacco israeliano e infatti le autorità stanno cercando di spostare i ministeri in altre città, pensiamo al Ministero della Cultura che è stato trasferito nella città di Isfahan, una città tra l'altro chiamata Nesre Jahan, in persiano la metà del mondo, proprio perché è così bella, e il governo sta dando incentivi ai dipendenti pubblici affinché si spostino in altri luoghi, si danno un equivalente di $40,000 per acquistare la casa altrove, quindi insomma ci sono tante tante dimensioni anche sullo scenario internazionale, perché noi parliamo sempre di Israele, di Stati Uniti, di Russia, ma c'è anche un altro attore importante ed è la Cina. La Cina ha investito $40 miliardi nell'industria petrolchimica iraniana ed è impegnata nella Repubblica Islamica su diversi fronti, avrebbe proposto di costruire 7 nuove raffinerie in Iran e questo lo riporta il 9 di agosto il Los Angeles Times, sì, che cita il vice ministro iraniano al petrolio. Insomma, quindi ci sono tante tante componenti. Poi c'è l'Asia centrale, cui noi come europei guardiamo un po' poco, ma il Turkmenistan non riesce a far uscire il proprio gas, allora c'è uno swap, c'è uno scambio di gas con l'Iran e quindi gli iraniani praticamente vendono il gas turkmeno. Allora, questo è quello che accade a livello internazionale, questo nel risico, nello scacchiere, chiamatelo come volete, nel quale l'Iran si rapporta con gli altri paesi e questo braccio di ferro fondamentale che sta tenendo con l'Occidente e con l'ONU per ciò che riguarda il programma nucleare. Ma dietro tutto questo c'è un paese che continua a vivere, che continua a muoversi, che alza la testa, che protesta. Che cosa sta succedendo in Iran? Perché non ci arrivano più notizie dell'onda verde? Che cosa accade? Io ho l'impressione che ci sia un clima di attesa, soprattutto dal punto di vista economico, perché in autunno saranno eliminati i sussidi al carburante, agli alimentari, quindi aumenteranno i prezzi di questi generi di prima necessità e quindi aumenterà anche l'inflazione, quindi ci sono innanzitutto delle preoccupazioni di tipo economico. L'onda verde è stata repressa duramente, l'abbiamo visto sui giornali, l'abbiamo letto, insomma, e la repressione quindi ha avuto un suo effetto. Ci sono delle debolezze intrinseche dell'onda verde perché è fatto per lo più di intellettuali, un po' come il movimento Today, è stato un movimento soprattutto persiano, ma non è un movimento sopito, a me verrebbe da dire che è un movimento d'opposizione liquido alla Bauman, insomma facciamo fatica a dire chi c'è dentro e chi c'è fuori, anche perché non possiamo etichettare le persone a seconda della situazione, l'uno si dice dentro piuttosto che fuori. Sì. Ma sulla blogosfera poi è uscita una lettera segreta che sarebbe stata scritta 20 anni fa da Mousavi, che allora era premier, e scriveva all'allora presidente della Repubblica Islamica Khamenei, in cui esprimeva frustrazione per essere stato tenuto all'oscuro di operazioni terroristiche della Repubblica Islamica fatte all'estero. Quindi insomma di queste cose si parla, come dire, Mousavi in realtà non era così coinvolto in quelle cose brutte che stava facendo allora l'Iran. Però tutto questo potrebbe portare ad altre rivelazioni. Ecco, fra l'altro sul ruolo di Mousavi, sul quale mi sembra ci sia spesso un fraintendimento da parte dei media, dell'opinione pubblica occidentale, torniamo, ma volevo farvi sentire che cosa dice Shahrzad Sholeh, presidente dell'Associazione delle Donne Democratiche Iraniane, proprio sull'onda verde e sul popolo iraniano che vorrebbe un cambiamento. questa onda verde è cominciata dopo l'elezione falsa che tutti hanno visto, ma ormai tutti vedono che ormai la gente scende nelle strade e gli slogan sono morta a Khamenei, morta al Velayat Faqih e morta a dittatura. Quando cominciano queste cose, quando ci sono questi slogan, per la gente che ormai dopo 30 anni di repressione non ce la fa più, questo già si vede che cosa vuole la gente. Vuole un cambiamento totale e democratico di questo regime, non una riforma che ci sono tante persone che chiedono. Riforma ormai in questo regime non è possibile, perché vediamo tutti i giorni le persone che vengono impiccate in piazza, le persone che vengono uccise sotto la tortura nei carceri dell'Iran. Quello che per esempio dice anche la resistenza iraniana, quello che dice Maryam Rajavi, presidente della resistenza iraniana, dice noi vogliamo, non vogliamo né guerra e né politica di accondiscendenza. Noi vogliamo un cambiamento democratico con appoggio dell'Occidente, e noi riusciamo a cambiare questo regime perché ormai la gente non ce la fa. La gente non ce la fa, dice Shahrzad. Io volevo poi tornare su quello che è la visione che abbiamo noi da fuori dell'Iran, ma è una visione che ci viene da un lato dalle poche immagini, dalle poche cose che possono uscire dall'Iran, dall'altro da quello che Teheran vuole far uscire. E mi riferisco alla controversa confessione televisiva di questa donna Ashtani, che sarebbe reo confessa nell'omicidio, nel tradimento e nell'omicidio del marito. La TV di Stato iraniana ha mandato in onda questa cosa. Farhan, mi aiuti a capire il perché di questa operazione, cioè è a uso interno, è a uso esterno? Perché Teheran fa vedere questa confessione? Sì, Giampaolo, permettimi di fare un passo indietro. Io non sono d'accordo con quello che ha appena detto la signora Shahrzad, perché un conto è il movimento d'opposizione all'estero e un conto invece è il movimento dentro all'Iran che noi chiamiamo Onda Verde, perché i leader sono Mousavi, Karroubi, Khatami, e tutte e tre non chiedono un regime diverso, chiedono delle riforme all'interno. Quindi bisogna fare attenzione a non confondere i movimenti di opposizione. Sì. Per quello che riguarda la confessione... Sì, scusami, è anche vero però, è anche vero che c'è una forte componente di giovani, soprattutto di studenti, e li abbiamo visti nei movimenti di piazza, che chiedevano un ribaltamento del regime. In realtà chiedono la rimozione di Khamenei. Quindi anche lì è un movimento liquido, secondo me ci sono dentro tante componenti, per cui non possiamo dire che sia una cosa piuttosto che l'altra. Sono al suo interno, ha delle correnti diverse e noi dall'esterno non riusciamo a discernirle in questo momento. Allora, però ti faccio proseguire nel ragionamento. Sì. Ci sono comunque tre leader che sono Mousavi, Karroubi e Khatami, che sono tre leader del sistema, perché comunque tutte e tre hanno ricoperto delle cariche precise all'interno e non chiedono la fine della Repubblica Islamica e la costituzione di una repubblica diversa. Allora, Nessun Luogo Lontano, l'Iran, il suo programma nucleare, ma anche la società civile, il paese e poi ultimamente questa confessione televisiva che insomma tanto sgomento ha creato. Farhan Sabahi, prego. Sì, è un tragico deterrente messo in atto da un clero che in parte è bigotto e che mesi fa aveva persino dichiarato che le donne malvelate causano terremoti, e questo dopo un terribile sisma che aveva portato centinaia di morti. Ecco, non dimentichiamo però che questo tipo di confessioni sono nella tradizione, ahimè, dell'Iran, perché già al tempo dello Shah gli oppositori politici e tante altre persone finivano in televisione e dovevano rinnegare dopo la tortura queste cose. C'è un bellissimo libro in inglese di Ervand Abramyan, che è un armeno iraniano che è mancato qualche anno fa, uno storico, che si chiama proprio Tortured Confessions, che traccia appunto le origini di queste confessioni televisive terribili. Ecco, quello che non mi è chiaro è a uso e consumo di chi viene fatto un servizio giornalistico di quel tipo sulla TV iraniana, perché è chiaro che, come dire, all'esterno, in Occidente, questa cosa provoca sgomento, no? Provoca riprovazione, e forse allora l'uso interno? È uso interno sicuramente, è un deterrente. Una volta al tempo dello Shah si condannavano le persone nella pubblica piazza, la gente passava e lasciava anche un obolo per contribuire alle spese del funerale, quindi è sicuramente un deterrente nei confronti della popolazione. Allora, deterrente nei confronti della popolazione, le donne e i giovani sono in qualche modo forse le persone più esposte, perché? Perché ad esempio, cito un caso su tutti, la musica può essere un gravissimo problema. In Iran c'è questo film molto bello, I gatti persiani, di cui abbiamo fatto poi sentire alcuni estratti di questo regista, che mostra le difficoltà di una coppia di fidanzati che poi vogliono suonare, vogliono fare rock nella Teheran di oggi, insomma, con tutte le conseguenze del caso. Donne e giovani, che ruolo possono avere? Ascoltate ancora cosa dice Shahrazad Sholeh. Specialmente le donne hanno un ruolo molto importante, perché poi è un regime misogino, ce l'ha specialmente con le donne. Abbiamo visto che nelle prime file ci sono le donne, abbiamo visto Nedra che è stato ucciso, lei pacificamente protestava, non è che aveva le armi o qualcos'altro. E poi abbiamo visto per esempio Taraneh, che barbaramente è stato violentato, poi è stato ucciso. E come loro? Ci sono migliaia di donne in Iran che combattono per la libertà e per la democrazia in Iran, e questo è il ruolo delle donne. E anche dei giovani, anche gli studenti, sono stati arrestati tanti studenti. Ormai c'era questo slogan sulle porte delle università che dicevano carcere di Evin è diventato università e università è diventato carcere. Allora, il carcere e l'università che si scambiano i ruoli, Farhan Sabahi, quanto i giovani, l'Iran ha una popolazione giovanissima, sono tantissimi sotto i 30 anni, quindi in realtà non hanno neanche vissuto la rivoluzione, quanto, sì, quanto questa cosa può incidere sulla storia dell'Iran? 50 milioni di iraniani hanno meno di 35 anni, quindi questo è sicuramente un dato importante. Molti sono preoccupati dalla crisi economica, quindi dal fatto che se non riescono a trovare lavoro non riescono a uscire di casa, a sposarsi, via di questo passo. Oggi le autorità di Teheran stanno cercando di spostare questi giovani turbolenti, soprattutto universitari, dalla capitale Teheran, che comunque è stata il fulcro della protesta, e di mandarli altrove. Stanno usando una mossa un po' particolare, cioè stanno abbassando i test di ingresso alle università fuori dalla capitale, cioè iscriversi all'università di Teheran sarà sempre più difficile, mentre invece sarà possibile con maggiore facilità nei centri minori. Quindi questo è un modo per invogliare i giovani a muoversi, ad andare altrove. Insomma, questo rientra in questo discorso legato al terremoto, che in realtà è un terremoto politico. Ma è questo fatto di, come dire, spostare i blocchi studenteschi, che poi sono poi quelli che scendono in piazza, sono quelli che poi gridano morte al regime, come dire, vuol dire spostare il detonatore della possibile violenza dalla capitale nelle zone rurali e quindi gestirle più facilmente? Sì, c'è quel tentativo sicuramente, ma non dimentichiamo che la protesta si è diffusa in questi mesi. Proprio all'inizio di agosto c'è stata la protesta anche nella città di Tabriz, per esempio, che nell'Azerbaigian è una regione dell'Iran, e lì proprio la gente ha protestato perché chiede maggiori diritti. È una minoranza etnica, quella azeri, e chiede appunto la possibilità di usare la propria lingua, cosa che non è del tutto possibile, anche se è garantita dalla Costituzione della Repubblica Islamica. Quindi l'assurdità oggi, il paradosso, è che la Costituzione della Repubblica Islamica garantisce maggiori diritti rispetto al tempo dello Shah, ma poi questi diritti non vengono rispettati. Quindi c'è la questione delle donne, c'è la questione dei giovani, ma tutto questo si intreccia anche alla questione delle minoranze, le minoranze che sono turbolente in questo governo di Ahmadinejad. Non dimentichiamo quello che è successo anche nel Baluchistan, dove essere minoranza etnica vuol dire anche essere minoranza religiosa, perché i baluchi sono musulmani, sì, ma sunniti. Sì, tra l'altro, se non erro, c'è stato qualche giorno fa uno scontro a fuoco tra curdi e Pasdaran, perché proprio nel nord del paese. Questo denuncia un po' la situazione che dicevi tu, che insomma l'Iran non è un tutt'uno, ma deve fronteggiare anche il suo interno delle diversità, delle sfaccettature. Stiamo cercando di descrivere quelli che sono gli scenari plausibili per interpretare il momento storico che l'Iran sta vivendo. Domanda secca, Farhan: il regime è a rischio implosione? L'attentato o il petardo ad Ahmadinejad ha un qualche significato? Qualcosa si sta muovendo? Che cosa può succedere nei prossimi mesi? Ma io sono una storica, quindi non mi piace fare previsioni, perché in genere non ci azzecco. Onestamente credo che le autorità abbiano controllo della situazione, ma anche qui non si può dire, perché al tempo della fine della monarchia, della rivoluzione del 79, gli americani e gli inglesi scrissero che andava tutto bene e che quel movimento non avrebbe fatto nulla. In realtà, secondo me, ci vuole un po' più di tempo, quello sicuramente. allora, contribuire a un eventuale cambiamento potrà essere sicuramente la crisi economica, che comunque sta continuando a peggiorare. E ancora una volta l'economia che può essere motore e molla per i cambiamenti storici e politici. Grazie a Franca Barì per essere stata con noi. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. E ancora i gatti persiani che ci fanno da colonna sonora in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, dedicata all'Iran, il rigurgito della società civile, dei giovani, del rock and roll, che vuole cambiare il paese e lo Stato di fatto. Allora, giro la domanda che ho fatto prima alla Sabai a Alberto Negri, Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. La domanda è: il regime è a rischio implosione, sì o no? No, non credo. Non credo, però ci sono dei contrasti forti all'interno della compagine di governo e del Parlamento e degli altri organi istituzionali del paese. C'è un contrasto forte tra Ahmadinejad e il Parlamento, perché il Majlis ha approvato recentemente alcune leggi economiche in contrasto con le richieste del governo di Ahmadinejad. C'è stato un contrasto anche con il Consiglio degli esperti, che dovrebbe dirimere appunto le diatribe tra il governo e il Parlamento. Un intervento della stessa guida suprema, Ali Khamenei, che ha chiesto al Consiglio dei Guardiani di formare un comitato ad hoc per dirimere appunto queste diatribe sulla politica economica. Ma questo è solo un aspetto del problema. Quale può essere il deus ex machina che farà cambiare storia al paese? Non è certo la pressione israeliana o quella americana o quella dell'ONU, perché l'abbiamo visto, fino adesso non ha cambiato niente. Forse può essere la società civile iraniana, cioè può da dentro il paese cambiarsi? Ma di solito i mutamenti iraniani sono quasi sempre venuti per movimenti interni più che per pressioni esterne, anche se ovviamente il contesto internazionale ha sempre avuto una sua influenza, anche nel 1979, quando ci fu la rivoluzione, fu in fondo il mancato intervento americano a fianco dello Shah, che era un alleato strettissimo di Washington, poi a determinare il successo stesso della rivoluzione. Quanto riguarda il movimento dell'Onda Verde, qui i problemi sono molteplici. Il primo sicuramente è quello che riguarda la leadership. Qui è stata tagliata la testa alla leadership del movimento. È vero che sono ancora a piede libero sia Mousavi che Karoubi, i due capi, sì, del movimento dell'Onda Verde, ma è vero che per esempio sono stati arrestati in questi giorni tre esponenti importanti. Uno di questi tra l'altro è Mohammed Taizadeh, mio amico personale, che è stato anche viceministro degli interni di Khatami e che era stata appena festeggiata la sua liberazione in primavera. Oggi è ritornato in carcere insieme ad altri, quindi c'è una difficoltà anche per gli studenti, per coloro che in qualche modo si riconoscono nel movimento di riformista o di opposizione al governo, ad avere una leadership politica. E poi c'è quello che accade nella società civile, una società civile dove c'è una forte opposizione, ma che è fortemente preoccupata più dai problemi economici che non da quelli strettamente politici. Ecco, l'ultimissima domanda, Alberto. Tu hai citato Mousavi, l'abbiamo detto, è un riformista, quando in realtà però insomma Mousavi è stato anche primo ministro ed era uno che diceva, prima di cambiare rotta, Israele va cancellato dalla faccia della terra. Cioè mi sembra che ci sia un grosso fraintendimento da parte nostra, che leggiamo dall'Occidente le vicende iraniane, nell'osannare questa onda verde riformista, quando in realtà insomma poi sono vecchi nomi e sono persone che stavano dentro al governo in passato. Cioè dov'è questa vera onda riformista iraniana? Esiste? Ma sicuramente esistono delle richieste della società civile. Prima la colonna sonora che accompagnava le vostre conversazioni, quella dei gatti persiani, è un film emblematico da questo punto di vista, perché è un film che racconta appunto la storia di giovani iraniani che non riescono in qualche modo ad avere soddisfazione alle proprie istanze anche di tipo culturale o soltanto musicale, e che poi intraprendono un'avventura alla ricerca di un visto per scappare dal paese. Questo è un segno evidente anche del malessere che c'è dentro la società. Poi il problema appunto della leadership a cui mi riferivo prima è fondamentale. Mousavi è un uomo dentro al sistema, è stato un uomo che negli anni Ottanta è stato primo ministro per alcuni anni, guidava l'ala della cosiddetta sinistra islamica, quelle delle statalizzazioni, quelle che in qualche modo addirittura si opponeva agli stessi movimenti sindacali delle fabbriche iraniane, e poi è passato da una parte molto diversa, ha avuto un'evoluzione politica, come accade a molti leader. Il problema è che forse noi ci aspettiamo troppo dalle società civili, non soltanto dell'Iran, ma forse anche da quella dell'Afghanistan e forse anche da quella del Pakistan. Queste società devono attraversare degli stadi anche evolutivi, che in qualche modo possono portare, con una coincidenza di situazioni, alla possibilità anche di ribaltare determinati regimi. In una situazione, soprattutto quella dell'Iran, dove la forza dei guardiani della rivoluzione e dell'ala radicale è profonda e non soltanto limitata. Loro. Grazie a voi. Allora, l'Iran oggi è nessun luogo lontano, abbiamo cercato di capire dove può andare questo paese al di là del programma nucleare, forse la chiave è nella società civile, come hanno detto alcuni dei miei ospiti. Allora, titoli di coda, devo ringraziare Valeria Coffaro che stava in redazione, Fabio Cantadori in regia, l'appuntamento è domani 13:15 e ricordate, nessun luogo lontano.